il sottoscritto e altri dicono il tempo della riforma fiscale è oggi, non è domani, più avanti, quando i tagli di spesa metteranno ancora più al sicuro i saldi pubblici, come è il ragionamento corrente e prevalente. Al contrario, se ci si dimentica che oltre a mettere in sicurezza i saldi pubblici, i mercati guardano anche alla componente della crescita, cioè al denominatore su cui insiste il numeratore, la spesa pubblica. E siccome noi siamo un paese che crescevamo meno degli altri, molto meno degli altri, già prima della crisi, rischiamo di correre, di crescere ancora meno degli altri per via dei tagli di spesa e dell'output potenziale, cioè della crescita potenziale inferiore a quella degli altri, della riforma fiscale ne abbiamo bisogno adesso. Di una riforma fiscale decisa che liberi molta pressione fiscale su lavoro e impresa, i due pilastri fondamentali per fare più sviluppo, e alla domanda, ma cosa avverrebbe con questa riforma che creerebbe nella transizione fatta così, abbattendo il prelievo marginale, cioè le aliquote più elevate, abbassando il più possibile verso un'aliquota di convergenza, noi diciamo il 23%, come si diceva nella delega del 2001 fiscale, quella di cui si dice sempre è impossibile attuarla oggi, cosa avverrebbe? Non sarebbe deficit in più? Non sareste in contrasto con la linea del rigore se proponete proprio oggi una riforma fiscale che sembra per convenzione generale invece essere rimandata ai tempi in cui la finanza pubblica sarà più sicura? Ecco, di questo parliamo oggi per spiegarvi meglio questa proposta è per capire perché la politica italiana ne diffida, perché la politica italiana continua a dire a voi che siete in ascolto e vi prego di intervenire all'800240024 che dovete aspettare ancora altri anni, domani, prima di vedere una riforma fiscale come quella che era promessa nella delega approvata dal Parlamento nel 2001 e poi non attuata in quella legislatura.